Ecco il codice da completare. Ore è uguale a 15. Minuti è uguale a ore moltiplicate per x. Secondi è uguale a minuti moltiplicati per x. Ritorna secondi. Cosa va inserito al posto di x?